L'operaio! Fermano. aggredire! Quadranti. Visi. Nudo. Afferra. Non si fermano. Tutta la città! La folla cresce. parla del morto. Passeranno. I mattini passeranno. No.